Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Fabrizio vide che gli operai stavano intorno al corpo di Giletti e lo guardavano senza avere il coraggio di toccarlo. «E aiutatelo!» gli gridò. «Toglietegli il vestito!» Ma alzando gli occhi vide venire avanti sullo stradone 5 o 6 uomini. Erano a piedi, camminavano adagio. «Devono essere gendarmi», pensò. «E dato che qui c'è un morto, mi arresteranno e avrò l'onore di rientrare a Parma in pompa magna. Sarebbe proprio un bel soggetto di conversazione per gli amici della Raversi che detestano la zia. Butta di colpa agli operai tutti i soldi che aveva addosso. Salta sulla carrozza, poi gli grida: «Se trattenete i gendarmi, vi darò una fortuna. Ditegli che sono innocente, che quell'uomo mi ha assalito e che voleva uccidervi». Poi dice al vetturino: «E tu, metti i cavalli al galoppo. Se passiamo il Po prima che quelli là mi prendano, avrai 4 napoleoni d'oro». «D'accordo», risponde il vetturino, «ma non dovete aver paura. Loro sono a piedi, basta solo che faccia trottare i miei cavallini per lasciarvi un bel po' indietro. E intanto mette i cavalli al galoppo». A sentire la parola paura, il nostro eroe fu molto seccato. È che in realtà aveva provato una paura tremenda dopo quel colpo in faccia. «Potremmo incontrare qualcuno a cavallo che va dalla parte opposta alla nostra», disse il vetturino. Era molto prudente, pensava ai 4 napoleoni d'oro. «E quegli uomini che ci seguono potrebbero gridargli di fermarci. Era come dire: ricaricate il fucile». «Ah, abbatino mio, come sei stato coraggioso», gridava la Marietta a Fabrizio abbracciandolo. La vecchia guardava fuori dal finestrino. Dopo un po' si tirò dentro. «Nessuno vi insegue, signore», disse a Fabrizio. «Era tranquillissima e non c'è nessuno neanche davanti sulla strada. I poliziotti austriaci sono molto scrupolosi, lo sapete. Se ci vedono arrivare al galoppo, potete star sicuro che ci fermeranno». Fabrizio mise la testa fuori dal finestrino. «Al trotto!» disse al cocchiere. Poi disse alla vecchia: «Che passaporto avete?» «Ne abbiamo 3, mica uno», rispose quella. «E per ogni passaporto abbiamo dovuto spendere 4 franchi. Non è tremendo per dei poveri attori che devono viaggiare tutto l'anno? Questo è il passaporto del signor Giletti, artista drammatico, e adesso lo userete voi. E questi sono il mio e quello della Mariettina». La carrozza continuava a andare al piccolo trotto. Quando in lontananza si videro le sbarre a righe gialle e nere che segnalano l'inizio del territorio austriaco, la vecchia disse a Fabrizio: «È meglio se andate avanti a piedi, con in tasca il passaporto di Giletti. Noi ci fermeremo un momento col pretesto di metterci un po' a posto. D'altra parte, dovremo passare alla dogana per i bagagli. Datemi ascolto. Attraversate Casalmaggiore camminando come se niente fosse. Andate anche in un caffè a bere un bicchiere di acquavite. Ma poi, una volta fuori del paese, filate. In territorio austriaco la polizia è maledettamente sul chi vive, lo sapranno subito che c'è stato un morto. E poi avete in tasca il passaporto di un altro, è più che sufficiente per un paio d'anni di prigione. Uscendo dal paese prendete a destra per arrivare al Po, noleggiate una barca e andate a nascondervi a Ravenna o a Ferrara. Dovete uscire il più presto possibile dagli stati austriaci. Con un paio di Luigi potrete comprare da qualche doganiere un altro passaporto. È un rischio tenervi addosso questo. Ricordatevi che l'avete ucciso». Andando a piedi verso il ponte di barche di Casalmaggiore, Fabrizio rileggeva attentamente il passaporto di Giletti. Il nostro eroe aveva una gran paura. Gli veniva in mente tutto quello che Mosca gli aveva detto su come fosse pericoloso per lui rimettere piede in territorio austriaco. E ora, lì davanti, c'era quel ponte tremendo. Quel ponte che lo avrebbe portato in un paese che per capitale era come se avesse lo Spielberg. Ma non c'era altro da fare. Thank you. Dobbiamo confessare che il nostro eroe passò una buona mezz'ora a camminare avanti e indietro sull'argine del Po, vicino al ponte di barche, prima di decidersi a scendere. Alla fine pensò: che consiglio darei a un altro che fosse al mio posto? Gli consiglierei di passare, è chiaro. È troppo rischioso restare nello stato di Parma. Anche se l'ho fatto per legittima difesa, ho ucciso un uomo e potrebbero mandarmi dietro i gendarmi. Come si vede, Fabrizio era uno di quegli individui che hanno la disgrazia di stare a torturarsi con l'immaginazione. E questo in Italia è in fondo il difetto delle persone intelligenti. Un soldato francese, coraggioso quanto Fabrizio, anche meno, si sarebbe presentato per passare il ponte immediatamente, senza pensare alle possibili difficoltà, ma avrebbe anche saputo controllarsi alla perfezione. Ma Fabrizio era ben lontano da sapersi controllare, quando in capo al ponte un ometto vestito di grigio gli disse: «Favorite all'ufficio di polizia per il passaporto». Il funzionario tese una mano giallognola, prese il passaporto. Era un ometto nero nero, aveva una spilla di ottone alla cravatta. «Deve essere di cattivo umore», pensò Fabrizio. Continuava a guardare il passaporto con un'aria stupidissima. Ci stette sopra 5 buoni minuti. Poi diede un'occhiata alla guancia di Fabrizio e disse: «Avete avuto un incidente, vedo. Il vetturino ci ha fatto rovesciare sulla diga». Ancora silenzio. Il funzionario lo guardava minacciosamente. «Ci siamo», pensò Fabrizio. «Adesso mi dirà che è spiacente, ma deve informarmi che sono in arresto». Incominciarono a venirgli un'infinità di idee pazzesche. Non era molto ragionevole il nostro eroe in quel momento. La porta era rimasta aperta e così lui pensò, tra le altre cose, di correre fuori. «Mi spoglio, mi butto nel Po, dovrei farcela a passarlo a nuoto, qualsiasi cosa piuttosto dello Spielberg». Sotto lo sguardo fisso del poliziotto, Fabrizio era tutto intento a calcolare le possibilità di successo di un piano del genere. Niente male davvero come espressione fra tutte e due. L'imminenza di un pericolo può rendere geniale un uomo ragionevole perché lo mette, per così dire, al di sopra di se stesso. A un uomo portato a fantasticare ispira soluzioni romanzesche, audaci, è vero, ma molte volte assurde. Come si vede, il nostro eroe era piuttosto terrorizzato, ma lo sarebbe stato ancora di più se avesse potuto leggere i pensieri del poliziotto. Quell'uomo era un amico di Giletti e era rimasto sbalordito nel vedere il suo passaporto nelle mani di un altro. In un primo momento aveva quasi deciso di farlo arrestare. Poi gli era venuto in mente che Giletti poteva benissimo aver venduto il suo passaporto a quel bel giovanotto che, a quanto pareva, doveva essersi messo in qualche pasticcio. «Se lo arresto», pensò, «ci va di mezzo Giletti, perché scopriranno subito che ha venduto il passaporto. D'altra parte, che cosa diranno i miei superiori se salterà fuori che io, amico di Giletti, ho messo il visto al suo passaporto presentato da un altro?» Si alzò sbadigliando. Poi disse a Fabrizio: «Aspettate, signore». E aggiunse una frase del mestiere: «C'è un piccolo contrattempo». «C'è che adesso io scappo», pensò Fabrizio. Il funzionario uscì dall'ufficio lasciando aperta la porta. Il passaporto era rimasto sul tavolo. «Si mette male, è chiaro», pensò Fabrizio. «Adesso prendo il passaporto e torno indietro, sul ponte, senza correre. Se mi fanno qualche domanda, dico che ho dimenticato di far mettere il visto al mio passaporto prima di uscire dagli stati di Parma». Aveva già preso in mano il passaporto e in quel momento sentì la voce del poliziotto che diceva: «Accidenti, non ne posso più, sto soffocando dal caldo, vado a bere qualcosa. Quando hai finito di fumare, vai in ufficio che c'è da mettere il visto al passaporto di un tale». Fabrizio stava uscendo in punta di piedi e si trovò faccia a faccia con un giovanotto che parlava da solo, canterellando. «E allora mettiamo questo visto, gli faremo una bella firmetta». Poi disse a Fabrizio: «Dove vuole andare, signore?» «A Mantova, Venezia e Ferrara». «E Ferrara sia», disse quello. Poi, fischiettando, timbrò il passaporto con il timbro del visto in inchiostro blu, scrisse in fretta il nome delle città nello spazio in bianco, girò un bel po' di volte la mano sopra la carta, firmò, intinse di nuovo la penna nel calamaio, tracciò lentamente, con estrema cura, un bel ghirigoro sotto la firma. Fabrizio non staccava gli occhi dalla penna. L'altro guardò la sua opera con aria molto soddisfatta, ci aggiunse 5 o 6 puntini e finalmente gli restituì il passaporto dicendo in tono frivolo: «Buon viaggio, signore!» Appena entrato in Casalmaggiore, Fabrizio prese a destra per una stradaccia che scendeva verso il fiume. «Quello che mi ci vuole è il conforto di Bacco e di Cerere», pensò. Entrò in una bottega che aveva come insegna un bastone da cui pendeva un cencio grigiastro con su scritto «Trattoria». Sulla soglia, per riparare dal sole, c'era un lenzuolo in pessimo stato tenuto su da 2 legnetti sottili. Dentro una donna bellissima e poco vestita accolse rispettosamente il nostro eroe, cosa che gli fece un gran piacere. Le disse subito che stava morendo di fame. Poi, mentre la donna stava preparando la colazione, entrò nella trattoria senza salutare un uomo sulla trentina. Sembrava fosse di casa, si sedette a un tavolo e di colpo si alzò in piedi e disse a Fabrizio: «Eccellenza, la riverisco!» In quel momento Fabrizio era di buon umore e così, invece di farsi venire in mente qualche idea sinistra, rispose ridendo: «E come diavolo fai a conoscere la mia eccellenza?» «Come? Vostra eccellenza non mi riconosce! Sono Ludovico! Facevi il cocchiere per la signora duchessa Sanseverina!» Fabrizio lo guardò. Gli sembrava di riconoscerlo. Era stato uno dei cocchieri più civettoni di casa Sanseverina. Mangiando una frittata, Fabrizio si mise a chiacchierare con quell'uomo affabilmente da pari a pari e gli parve di capire che Ludovico fosse l'amante dello stessa. Finì di mangiare in fretta, poi gli disse sottovoce: «Ho qualcosa da dirti. Vostra Eccellenza può parlare liberamente davanti a lei. È una bravissima donna», disse Ludovico tutto intenerito. «Dunque, amici miei», riprese Fabrizio senza esitazioni, «mi trovo in un guaio e ho bisogno del vostro aiuto. Non si tratta di politica, badate. Ho semplicemente ucciso un uomo che voleva copparmi perché stavo parlando alla sua amante». «Povero signore», disse lo stessa. «Vostra Eccellenza può contare su di me», gridò il cocchiere. Gli brillavano gli occhi dalla devozione. «Dove volete andare, Eccellenza?» «A Ferrara. Ho un passaporto, ma preferirei non avere a che fare con i gendarmi. Potrebbero essere stati informati della faccenda». «Quand'è che l'avete fatto fuori?» «Stamattina, alle 6». «Non avrete mica del sangue sui vestiti, Eccellenza», disse lo stessa. «Ci stavo pensando anch'io», disse il cocchiere. «E poi c'è il fatto che sono vestiti troppo eleganti. Non se ne vede molta di roba simile qui in campagna. Darebbero nell'occhio. Andrò a comprarvene degli altri dall'ebreo. Vostra Eccellenza è alto pressappoco come me, solo che è un po' più magro. Per favore, non chiamarmi più Eccellenza, potrebbe attirare l'attenzione». «Sì, Eccellenza», rispose il cocchiere uscendo. In quel momento entrò nella stanza da una porta interna un giovanotto alto, vestito con una certa eleganza. «È mio marito», disse lo stessa. Poi disse al giovanotto: «Pierantonio, il signore è un amico di Ludovico. Stamattina di là dal fiume gli è capitato un incidente e adesso vuole andare a Ferrara». «Lo faremo passare», disse il marito in tono molto gentile. «C'è la barca di Carlo Giuseppe». Rientrò Ludovico con in mano un pacco. «Ehi là, ciao», gli disse il marito amichevolmente. «Lascia perdere», disse Ludovico. Sembrava molto allarmato. «Parlano di voi. Vi hanno visto quando avete lasciato la strada grande e avete preso per il vicolo. Dicono che sembravate incerto, come uno che cerca di nascondersi». Adesso Fabrizio era vestito come un ricco campagnolo. Ludovico prese una rete che era appesa al muro, nascose gli abiti di Fabrizio dentro al cesto dei pesci, poi, seguito da Fabrizio, scese in fretta le scale e uscì da una porta sul dietro della casa. Passando vicino alla trattoria, gridò: «Teodolinda, la roba che c'è di sopra nascondila! Noi andiamo a aspettare in mezzo ai salici, sul fiume. E tu, Pierantonio, mandaci una barca e in fretta. Digli che paghiamo bene». Passarono una ventina di canali. Sui più larghi c'erano certe assi lunghissime, molto elastiche, che servivano da ponte. Una volta passati, Ludovico le tirava via. Dopo l'ultimo canale, spostò in fretta le assi, poi disse: «Adesso possiamo tirare il fiato. Quella carogna di gendarme avrà da fare più di 2 leghe prima di prendere Vostra Eccellenza». «Ma come siete pallido! Ho portato un po' d'acquavite. Tenete, proprio quello che ci vuole. La ferita alla coscia incomincia a farsi sentire e poi ho avuto tanta di quella paura nell'ufficio di polizia». La barca arrivò soltanto al tramonto. Quando Ludovico la vide in lontananza, svegliò Fabrizio. Poi Fabrizio scrisse 2 lettere. Thank you. Fu soltanto 2 giorni dopo, di notte, che Fabrizio poté sbarcare in tutta sicurezza in un bosco di ontani a una lega da Ponte Lagoscuro. Il giorno dopo lo passò nascosto in un campo di canapa. Intanto, a Ferrara, Ludovico prese in affitto una stanza in casa di un ebreo povero, un tipo che capì subito che a saper star zitti c'era da guadagnare. La sera, verso il tramonto, Fabrizio arrivò a Ferrara in sella un cavallino. Ne aveva proprio bisogno, non se la sentiva di camminare. Il gran caldo sul fiume l'aveva estenuato e le ferite di coltello e di spada alla coscia e alla spalla si erano infiammate e gli avevano fatto venire la febbre. Il padrone di casa, l'ebreo, aveva fatto venire un medico molto discreto e questi, rendendosi conto anche lui che c'era da guadagnare, disse a Ludovico, che gli aveva presentato Fabrizio come suo fratello, che per una questione di coscienza era costretto a fare un rapporto alla polizia sulle ferite di quel giovanotto. «La legge parla chiaro», aggiunse. «È evidente che vostro fratello non si è ferito da solo, come dice lui», cadendo da una scala con in mano un coltello. Ludovico rispose freddamente a quel medico tanto scrupoloso che se gli fosse passato per la testa di seguire l'ispirazione della sua coscienza, quanto prima gli sarebbe capitato a lui di cadere addosso a un coltello. Fabrizio, quando seppe dell'incidente, disse a Ludovico che aveva fatto un grosso sbaglio, ma bisognava scappare, non c'era un minuto da perdere. Ludovico disse all'ebreo che voleva far prendere a suo fratello una boccata d'aria. Andò a cercare una carrozza e lui e Fabrizio uscirono da quella casa per non tornarci più. Uscirono da Ferrara come se andassero a fare una passeggiata e andò tutto bene. Una volta fuori città, Ludovico mandò indietro la carrozza, rientrò a Ferrara da un'altra porta e poi tornò a prendere Fabrizio con una sediola che aveva noleggiato per un viaggio di una dozzina di leghe. Arrivati nei dintorni di Bologna, si fecero portare attraverso i campi fino alla strada che viene da Firenze. Passarono la notte nell'albergo più povero che riuscirono a trovare e il mattino dopo, dato che Fabrizio sentiva di poter camminare, entrarono a Bologna a piedi, come se tornassero da una passeggiata. Il passaporto di Giletti l'avevano bruciato. Ormai la notizia della morte dell'attore doveva essere arrivata anche a Bologna e si correvano meno rischi a essere arrestati per mancanza di documenti che non per il fatto di aver addosso il passaporto di un assassinato. Fabrizio si sentiva stanchissimo. Senza passaporto non osava andare in albergo. Entrò nella cattedrale di San Petronio. C'era un fresco delizioso in quella chiesa immensa. Si sentì subito meglio, ma di colpo pensò: «Che ingrato che sono! Entro in una chiesa e mi siedo come se fossi in un caffè». Si buttò in ginocchio, ringraziò di cuore il Signore per la protezione che gli aveva accordato con tanta abbondanza dopo che lui aveva avuto la sfortuna di dover uccidere Giletti. Si sentiva ancora rabbrividire a pensare a quei momenti nell'ufficio di polizia a Casalmaggiore. Passò più di un'ora tutto commosso di fronte alla bontà immensa di Dio. Ludovico gli andò vicino senza che lui lo sentisse, gli si mise davanti. Poi Fabrizio, che si teneva le mani sulla faccia, alzò la testa e Ludovico vide che aveva le guance bagnate dalle lacrime. Prima di uscire, andò da una vecchietta seduta vicino a una grande Madonna. Davanti c'era un triangolo di ferro posto su un sostegno e con i lati irti di punte sulle quali conficcare le candeline che i fedeli dedicano alla famosa Madonna di Cimabue. In quel momento c'erano soltanto 7 candele accese. Fabrizio lo notò, pensò che era una circostanza sulla quale avrebbe dovuto riflettere. «Quanto costano le candele?» chiese alla vecchia. 2 baiocchi l'una. Erano candeline sottilissime, non più grosse di una penna e molto corte. «Quante ce ne stanno ancora su qui?» «Vediamo, ce ne sono 7, 73. «Ah», pensò Fabrizio. 63 più 7 fa 70, bisogna che ci pensi. Pagò le candele, accese lui stesso le prime 7 e si inginocchiò per offrirle alla Madonna. Poi alzandosi disse alla vecchia: «È per grazia ricevuta», e uscì dalla chiesa. «Sto morendo di fame», disse a Ludovico. «È meglio non andare in un'osteria, andiamo a casa, ci penserà la padrona a prendere qualcosa da mangiare, così avrà modo di rubare sulla spesa e si sentirà ancora più legata a suo nuovo ospite». «Ma tu vuoi proprio farmi morire di fame», disse Fabrizio ridendo, sereno come un bambino, e entrò in un'osteria vicina a San Petronio. «Qui ebbe la sorpresa di vedere che a un tavolo vicino al suo era seduto Pepe, primo cameriere di sua zia, quello che una volta gli aveva mandato incontro a Ginevra. Fabrizio gli fece segno di non muoversi, poi, dopo aver mangiato in fretta, si alzò da tavola sorridendo beatamente. Pepe si alzò anche lui e lo seguì, e Fabrizio entrò in San Petronio. Ludovico restò fuori per discrezione. «Santo cielo, monsignore, come vanno le vostre ferite? La signora duchessa è terribilmente in pensiero. Per tutto un giorno vi ha creduto morto, buttato su qualche isola sul fiume. Le manderò immediatamente vostre notizie. Sono 6 giorni che vi cerco. 3 li ho passati a Ferrara a fare il giro di tutti gli alberghi. Hai un passaporto per me? Ne ho 3». Uno diverso dall'altro, uno con il nome e i titoli di vostra eccellenza, uno con il solo nome e il terzo con un nome falso, Giuseppe Bossi. Sono tutti in 2 copie, in modo che vostra eccellenza può far credere di essere arrivato da Modena o Firenze, come vuole. Basterà fare un giretto fuori città. A signor Conte Mosca farebbe piacere se andaste all'albergo del Pellegrino, perché il padrone è un suo amico. Pietro Biondi ha letto La Certosa di Parma di Stendhal. Riduzione di Giovanni Piccioni. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.